Bene, continuiamo nella nostra lista, prendiamo altri spunti, come nella PNL si parla di stili di pensiero. Ecco, uno stile è, l'ultimo che abbiamo visto, procedure opzioni, un altro, molto simile a questo, è obiettivi e processi. Cioè ci sono persone che sono interessate ai processi, cioè nella costruzione di un progetto, sono soprattutto si entusiasmano, mettono l'energia quando si sta ideando, costruendo un progetto. Sono meno interessati tutto sommato a raggiungere l'obiettivo. Altri invece sono fondamentalmente interessati a raggiungere l'obiettivo. Quindi il processo è considerato una tassa da pagare. E questo è molto evidente in certe conversazioni con le persone. Mi ricordo una volta in un gruppo. Un gruppo di psicoterapeuti della famiglia, avevamo uno studio di psicoterapia familiare che stavamo appunto facendo una discussione sui diversi modelli, sui diversi approcci che avevamo ed eravamo tutti coinvolti. A un certo punto uno di noi cominciò a sbuffare, disse: sì, ma dove andiamo a parare? E disse: noi dobbiamo trovare un obiettivo di tutta questa discussione. Cosa ne viene fuori? Quali saranno le differenze che faremo nella terapia in base a questa conversazione? Ora, per noi, gli altri, che eravamo tutti interessati al processo, questa fu come una doccia fredda che ci tirò fuori da quello che consideravamo una conversazione invece molto arricchente. Come al solito, non è che c'è uno stile di pensiero che è giusto o che è sbagliato, si tratta dei momenti e delle circostanze. Quindi, colui che è processi funziona bene nel momento creativo, colui che obiettivi serve molto nel momento in cui si tratta di realizzare, perché colui che nel momento creativo può troppo divertirsi creando e perdere di vista lo scopo. Ad esempio, c'è un pittore mio amico, cioè papà di un mio amico, il quale è molto bravo, è pittore, e lui è interessato al processo, lui fa i quadri. Poi però non è magari non ha problemi con i soldi. Ecco, quello di venderlo per lui è un affare che non interessa per nulla. È vero che in un pittore non c'è, nella definizione di pittore, non è che è quello che vende il quadro, però in una struttura di personalità più equilibrata c'è anche il fatto di sopravvivere su questo pianeta e quindi bisogna mettere anche quel tanto di obiettivi che sono necessari. Ecco, questo è un esempio. Poi in PNL un altro dei metaprogrammi che hanno a che fare sicuramente con gli stili di pensiero è team player e single player. E anche questo, conoscere questo metaprogramma è fondamentale per non trovarsi a volte in impasse difficili da risolvere, specialmente appunto nei gruppi e nelle organizzazioni. Team player sono coloro che lavorano volentieri in gruppo, cioè che per loro è naturale condividere le loro esperienze. E a volte stare anche nella stessa stanza, conversare, così. Single player sono coloro che non sono interessati al lavoro di gruppo, sono interessati a raggiungere il risultato loro. Il gruppo può servire come strumento, ma niente di più. Allora, è chiaro che il primo tipo, il team player, sono adatti a fare determinati lavori e i single player a farne degli altri. Esempio, stare tutto il giorno davanti a un computer isolato dagli altri per un team player può essere l'anticamera della sua fine, insomma, la sua morte, insomma, la sua rovina. Ma viceversa, per un single player trovarsi in un contesto dove non si fa che passare da una riunione all'altra, dove si discute o dove il lavoro è la discussione, è il dialogo. Sono proprio modi diversi di usare la mente, evidentemente. Poi ce n'è un altro metaprogramma che è stato messo nella PNL da Willy Monteiro, che è un trainer che risiede a Londra, ma di origine indiana, che abbiamo avuto molte volte in Italia. Questo metaprogramma ha a che fare con gli stili di apprendimento, ma sono stili di pensiero anche questi. Lui divide in quattro stili: cosa, come e se, perché. Monteiro in realtà ha citato un altro autore, però non riesco a ricordare in questo momento, non è una sua invenzione. Cosa? lo studente, colui che si appresta a imparare qualcosa, se ha come metaprogramma cosa, è interessata all'informazione, che da poter poi riferire, magazzinare queste informazioni e sapere, l'illuminismo, che cos'è, quando è nato, chi sono i filosofi illuministi, e quindi una serie di dati di questo tipo. Come? Chi è interessato al come dice, vabbè, ma come posso utilizzare questa cosa? Per esempio, chi frequenta un corso di PNL di solito è abbastanza interessato al come, perché la PNL è pragmatica. Quindi non si limita a parlare di teorie, anzi, le teorie nella PNL sono viste piuttosto male. Ci si occupa di imparare delle cose per farle funzionare. Quindi come si fa a farle funzionare? Ad esempio, impariamo la ricerca transderivazionale. Impariamo che noi possiamo retrocedere nel tempo e andare a pescare un episodio del nostro passato che non ricordavamo più, semplicemente attraverso un ancoraggio, che adesso non sto a specificare come funziona. Bene, questa è una teoria. Nella PNL ci si pone la domanda, beh, ma come si fa? E quindi lo studente che è interessato al come, di solito cosa fa? Quando si descrive la parte teorica, ha un'attenzione piuttosto limitata. Appena si dice come veramente invece le cose si fanno, come si traducono in una tecnica, allora lì apre bene le orecchie e gli occhi. Poi c'è l'altro stile, e se è piuttosto curioso, nel senso che una persona e se pensa sempre in che altro modo potrebbe essere la cosa rispetto a quella che mi viene presentata. Quindi, mi viene presentato il cambio di storia, poniamo sempre il PNL, e dice sì, vabbè, è fatto così, e se facessi in quest'altro modo non funzionerebbe lo stesso. E se anziché utilizzare le ancore, utilizzassi, che ne so, solo le parole, e se anziché solo le parole usassi la musica, quindi le persone e se sono persone che tendono al pensiero divergente, come si dice, no? Creare altri nuovi modi possibili. E sono motivati in un contesto dove questo è possibile. Per una persona in sé, un contesto di procedure è la sua morte vivente, la sua morte. Poi ci sono le persone perché. Perché sono quelle che si chiedono, sempre di fronte allo stesso esempio, cambi di storia, ma perché dovrei farlo? Se non viene motivato sul perché, non porta attenzione. Gli spieghi il Rinascimento. Non è interessato se non ne capisce la finalità. Beh, allora adesso che lo so, cosa mi interessa? Ecco. Bene, sono quattro stili di pensiero che ovviamente, come al solito, convivono nella stessa persona, ma alcuni sono più focalizzati su uno o sull'altro. Perché è importante conoscere questi stili di pensiero? Perché è un modo per entrare in rapporto, per poter avere un dialogo. Se voglio soddisfare una persona che prevalentemente è focalizzata sul perché, sarà meglio che inizi proprio a parlare di questo. Perché parlare di questa cosa? Altrimenti tutto quello che dico non ci porta una grande attenzione.